molto difficile, lo so. Però è meteo. Musica allo stato puro. Ti ripeto, è sicuro. Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire. Fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Resterà piccino il cammino di Gigi D'Agostino. Fai andare l'usignolo, è il suo momento questo. Vorrei che vedeste la sua espressione mentre fischietta. È forte, è proprio. È amore, è vita. Sì, perché anche oggi è una giornata speciale, perché stiamo vivendo. È questo che vuole dirci il cammino ogni giorno. Volevo ringraziarvi ancora perché state mandando un sacco di dediche, quindi questo supporto mi fa sentire abbracciato da tutti voi, quindi è meraviglioso. Vi ripeto che ovviamente le dividerò nelle varie puntate, cioè, insomma non potrò leggerle tutte insieme il giorno stesso che le mandate. Dai, che famo notti? È giusto per cominciare con serenità, con tranquillità, senza... Dai un po'! Senza suoni troppo violenti. Giusto qualche passo tranquillo. A tempo. Questo è uno di quei brani che si ballano col pugno al cielo. Mi raccomando, cerchiamo di fare bene questo movimento perché è importante. Pugno al cielo, quasi come per sbatterlo contro il muro, quindi il movimento è indietro, avanti. Contro il muro, proprio come per picchiare contro il muro. La faccia è un po' imbruttita, quindi io non devo faticare molto. Sguardo proprio incazzatello. Labbro, quello sotto, quello sopra e superiore. Il sotto è, come si dice? Tipo? Inferiore, la parte inferiore del labbro. Un po' tirato un po' verso, come per farsi piovere dentro, no? Ecco così. E quindi incazzata così, guardi, capito? Si capisce quello incazzato, il pugno verso l'alto che sbatte contro il muro, la faccia. Io non so se riuscite a immaginare, però insomma cercherò di farvelo vedere bene. Cercherò di farvelo vedere brutto, non si può vedere, si pensa, ma cercherò di farvi capire meglio questa cosa live durante le serate. Ciao Gigi, sono Summa del Forum. Volevo dedicare a mia mamma Rita, non sono un santo. Perciò e per tanto Mi piace il tempo e questa emozione, mi piace il gioco di sta canzone. Star folclorista, ma che dai poco sta gat casa. Hai visto all'altra parte fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. Hai visto all'altra parte. Ma che è? Come spegni sta musica? Mi puoi suonare Canto d'Omar per il mio piccolo amore Ila? Teo. E certo, È certo che la suono. Basta chiedere, no? Vorrei dedicare Canto d'Omar ad Elvira. L'amo e l'amerò eternamente. Edwin da Lugo, Ravenna. Il destino ha voluto che le nostre anime si incontrassero. E ora, eccoci qui, a viverci tra sorrisi e lacrime. Grazie di essere entrata a far parte della mia vita, sorelle. Tua musica è come quella degli angeli e tu sei l'unico con la tua melodia che possa far capire a Tiziana quanto lei è importante per me. Tiziana, chiamami, mi manchi. ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Pubblicità. Tra-ra-ta-ta. Pubblicità. Tra-ra-ta-ta. Pubblicità. Tra-ra-ta-ta. Pubblicità. Tra-ra-ta-ta. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Vorrei dedicare Fomento ad Ale, Steo. No, ho sbagliato. Rileggo. Vorrei dedicare. È difficile qua. Allora, vorrei dedicare Fomento ad Ale, Ste, Teo e Penny. Insieme a Tempo. Valse. Insieme a Tempo. Valse. Dedicare Again ad una persona che continua a farmi tremare anche senza la sua presenza. Ciao Marike. Lo sai, il mio unico desiderio è di vederti ancora, mi manchi. Francesco da Fasano. We'll be right back.

Siamo due ragazze di Firenze e dintorni e vorremmo dedicare Mosca Matta agli Spaghetti Trip, fra 81 e anni 83. Tutto a posto, i due spaghetti sono già in viaggio su un treno verso Firenze. Giuseppe, Capriccio. Gigi continua sempre con il lento violento. Gigi da Fasano. È per forza che continua. Lento violento per sempre. Ho cominciato tantissimi anni fa il mio percorso lento violento e di sicuro non smetto proprio ora. Dedico Capriccio al mio ginocchio destro. Lui sa perché. Ma in fondo gli voglio bene. Con lui ho trascorso 19 stupendi anni tra corse e calcio d'un pallone. Grazie, da Emi. Chitarra per le strade e le persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare. Problemi di cuore? Fatevi suore. Lento. Violento. Il titolo di questo brano è Non giochiamo. Artista, Dottor Doug, ti fa una visita e non lo paga. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Pubblicità, taratata, pubblicità, taratata, pubblicità, taratata, pubblicità, taratata. Signore e signori, è arrivato il folclorista Gigi D'Agostino. Avete mai sentito parlare di quel presentatore che comincia le frasi e poi... I'm gonna show the world my blue, white, you know, it's not being cheer up. Fast, make the chill, it's not being cheer up. I'm gonna show the world my blue, white, you know, it's not being cheer up.